Well, buongiorno e benvenuti a questa nuova lezione di Gesù. Ormai ci avviamo verso le lezioni conclusive, questa è la terz'ultima, che dedichiamo a uno dei giganti del jazz. In genere in queste lezioni abbiamo sempre parlato di personaggi storici e quindi anche defunti. Fortunatamente oggi affrontiamo un maestro assoluto del jazz che è ancora attivo, anche se con qualche piccolo problema di salute, visto che ormai ha quasi 85 anni, e cioè Sonny Rollins, che senza timore di esagerazione definirei non solo il più grande sax tenore che il jazz abbia mai espresso, anche se forse Coltrane uscirebbe in questo momento dalla tomba, o Lester Young con le mani Hawkins farebbero una danza delle streghe tipo Macbeth per farmi fuori, ma in realtà è uno dei più grandi improvvisatori di tutti i tempi. Ed è questo il tema della lezione di oggi, cioè vorrei portarvi per mano, diciamo così, anche tra le pieghe, nei dettagli della musica di Sonny Rollins, per comprenderne la grandezza e per comprendere quanto possa essere complessa, ricca, avvincente e creativa l'arte dell'improvvisazione, in particolare dell'improvvisazione jazz. La lezione di oggi non è un ritratto biografico di Sonny Rollins, piuttosto è un ritratto musicale, però è necessario provare a definire, diciamo, alcuni momenti topici, diciamo, della vita di Sonny Rollins. E Sonny Rollins nasce a New York nel 1930, qui trovate una lista dei momenti più salienti della sua lunga vita, una infanzia passata a New York, qualche problema giovanile con il brutto mondo del bebop, che riguardava soprattutto poi questioni connesse alla tossicodipendenza, la militanza nel quintetto di Miles Davis nei primi anni 50, compagni, ahimè, anche di siringhe in quel periodo, la fine della dipendenza dall'eroina. Tra l'altro Rollins fu uno di coloro che sperimentarono in una fase proprio sperimentale il metadone come strumento di liberazione dall'eroina, poi l'ingresso nel quintetto di Clifford Brown e Max Roach, e poi l'attività sempre più intensa da leader fra il 56 e il 59, il primo tour europeo nel 1959, poi uno dei famosi, forse il più famoso momento della vita di Sonny Rollins, cioè a 29 anni, al culmine della fama anche che il mondo del jazz gli stava tributando, Rollins, che come personalità è stato sempre un uomo, a dispetto di questa, come dire, presenza fisica anche gigantesca, autorevole, perfino luciferina, è stato sempre un uomo estremamente insicuro. E insicurezza che tra l'altro si manifesta a volte anche in questa grande varietà di capigliature, look, che è cambiato nel corso della sua vita. E nel 59, al colmo della sua fama, osannato da tutti come il più grande sax tenore vivente, lui si sente schiacciato da questa responsabilità e sparisce dalla circolazione, oltre ad aver avuto problemi di tipo privato, una separazione dalla moglie, quindi un misto di situazioni private e pubbliche lo inducono a sparire. Poi un giornalista per caso lo trova sul ponte di Williamsburg, uno dei ponti che collegano Manhattan a Brooklyn, e passava lì le notti a esercitarsi sul sassofono per non disturbare i vicini di casa. E questa immagine del sassofonista che la notte suona sul ponte per esercitarsi, il sassofonista che è sparito, che è scomparso proprio letteralmente dalla circolazione, è entrata nell'immaginario del jazz, e se qualcuno segue i Simpson, per esempio, anche loro hanno tributato un omaggio al sassofonista sul ponte. Il grande ritorno con un disco che si chiamava fatalmente The Bridge, il ponte, contratto per la RCA, l'influenza, come vedremo, della musica di Ornette Coleman, quindi un quartetto con Don Cherry, poi i dischi per la Impulse, e poi però nel 69, in un momento di grave crisi anche economica per il jazz, un secondo clamoroso ritiro. Questa volta le ragioni sono diverse, Rollins si stava avvicinando alla meditazione zen, aveva fatto dei viaggi in Giappone, aveva un suo maestro di meditazione in Giappone e lo yoga e insomma la ricerca di un equilibrio fisico soprattutto e mentale ancora una volta lo induce a tagliare i ponti con la professione. Ritornerà nel 71-72 sull'onda di una nuova spinta professionale che lo porta poi ad avere un crescente successo commerciale che arriva fino, come dire, allo status di divo che oggi ha raggiunto fino a essere addirittura stato ricevuto di recente anche alla Casa Bianca da Obama. Questa è, come dire, un riassunto estremamente sintetico di Rollins. Vorrei aggiungere, per quanto riguarda la sua formazione musicale, che Rollins è sostanzialmente un autodidatta ed è sostanzialmente un musicista di istinto. Al contrario di Coltrane, come vedremo, Rollins non è uno che studia da solo per conto proprio, ma non tende molto a razionalizzare quello che fa. È un gigante della musica che lavora in maniera molto istintiva, mentre Coltrane, il suo amico John Coltrane, era un gigante della musica che tendeva a razionalizzare molto quello che faceva. Io inizierei questa lezione semplicemente facendovi ascoltare un pezzo di Rollins. Prima di entrare, diciamo, nei dettagli, vi farei ascoltare un pezzo di Rollins e vi farei sentire, adesso qui c'è la connessione che va e viene, quindi passo, ecco così, vi farei sentire da un famoso disco del 1957, Way Out West, in cui Rollins suona canzoni legate in qualche modo al vecchio West, una canzone che si chiama I Am an Old Cowhand, in trio con Ray Brown e Shelly Mann. Perché vi faccio sentire questo pezzo? Perché già contiene, secondo me, molti aspetti che poi discuteremo. Primo, la scelta di un repertorio curioso. Rollins è sempre andato a caccia di pezzi strani, bruttini, un po' sciocchi, poco conosciuti. Non gli interessa il grande repertorio delle canzoni. La sua idea è di poter costruire un grande discorso musicale partendo da materiale anche artisticamente minore, perfino ridicolo per qualche verso. Il secondo aspetto è che Rollins introduce nella storia della musica, direi, il suono del trio per sassofono, contrabbasso e batteria. Non c'è il pianoforte. Non c'è il pianoforte perché il suono di questo sax tenore è talmente grande, vasto, che il pianoforte può solo ridurre il raggio d'azione dello strumento, che invece, non avendo ostacoli, si muove su tutti i registri e, come dire, ha tutto lo spazio per respirare, sia da un punto di vista del disegno melodico, sia proprio dal punto di vista del respiro del suono. E poi potrete apprezzare un terzo aspetto che pure coglieremo, che è quello dello humor. Andando a caccia di pezzi curiosi da ricostruire, Rollins, lui non lo ha mai negato questo aspetto, per lui nella sua vita privata anche lo humor è un aspetto essenziale. Rollins è un musicista che ama lo humor, ama l'ironia, quindi l'idea di prendere un pezzo, smontarlo, rielaborarlo. È la prima volta che vedo un mio spettacolo due persone che discutono perché mi vogliono sentire. Questa è una cosa che aumenta l'ego, grazie del piccolo battibecco. Rollins, la scelta di I'm an Old Cowhand, fate attenzione, non solo è legata appunto quindi a un repertorio minore, ma è un repertorio minore che consente un approccio umoristico e ironico al materiale. Un ultimissimo aspetto che vi prego di notare prima dell'ascolto integrale che facciamo del pezzo è il suono di Rollins. Sentite come, poi ci torniamo, ma intanto già da questo ascolto sentite come Rollins sbozzi le note, quasi fosse Michelangelo che toglie pezzi di marmo per tirar fuori una figura. Le note sono come scolpite, come articolate con grande forza una dopo l'altra, si sentono proprio distintamente. Rollins non è un amante del legato, ti deve far sentire ogni singola nota, e ogni singola nota, fateci caso, ha un colore, soprattutto una dinamica diversa, una è forte, una è piano, una è mezzo forte. C'è continuamente questo movimento che tra l'altro richiede una tecnica superlativa, ma su questo torneremo. No, c'è qualcosa che... Torno al vecchio metodo, al buon vecchio metodo, così... Thank you. Questo era I'm an Old Cowhand dall'album Way Out West, il trio di Sonny Rollins, Ray Brown e Shelly Mann. Questo brano contiene molti aspetti interessanti e lo usiamo, vorrei farvi risentire in particolare due frammentini per farvi cogliere due diversi aspetti del suono di Rollins. Il primo è quello della articolazione, cioè il modo in cui le note, dicevo, sono prodotte, sbozzate, con dei colpi molto secchi, come se fossero una specie di alto rilievo, sbozzati in maniera molto precisa. Per esempio, all'inizio, e questo il più soffiato fa, è un modo per cambiare il suono, e il cambio di suono però ottiene anche un effetto umoristico, perché la melodia è talmente banale che Rollins ci gioca intorno facendo questa botta e risposta in cui la risposta arriva con un lieve ritardo. Poi ci sono quelle note che sembrano degli errori, ma in realtà Rollins ha un controllo sovrumano dello strumento, già a 27 anni, è l'età nella quale ha registrato questo brano, per esempio facendo delle note che sembrano strozzate o sbagliate e che quindi cambiano improvvisamente il colore al fraseggio. Avete sentito quelle note singhiozzanti? Dici, ma che fa, ha sbagliato? No, è fatta apposta. Tant'è vero che lui, questo gioco di note singhiozzanti, grattate, false, chiamiamole così, note false, note fallite, le utilizza molto spesso anche nei fraseggi veloci. Questi sono due frammenti che vi faccio sentire da I Remember April, registrato con il quintetto di Clifford Brown e Max Roach, proprio due micro frammentini, fate attenzione. Avete sentito le note strozzate? Un altro esempio. Avete sentito che ogni tanto dove fa le note accentate c'è questo suono roco, diciamo così. Un suono roco che è ottenuto attraverso una speciale diteggiatura, si chiamano tecnicamente i suoni armonici, che di solito i sassofonisti utilizzano per fare dei suoni lunghi e non nel fraseggio così rapido, cosa che richiede un'abilità tecnica superlativa. Ora vorrei entrare, una volta cominciato a capire questo aspetto del suono, su cui torneremo, vorrei cominciare a capire con voi come Rollins costruisce i suoi assoli, perché Rollins è un maestro architetto. Anche se i suoi assoli sono spesso lunghissimi, sono come quelli di Coltrane, fluviali, rapsodici, in realtà dietro questo flusso, dietro questa ondata di idee, c'è un pensiero musicale estremamente rigoroso e articolato, e vorrei con voi cogliere alcuni aspetti di questo pensiero. Lo facciamo prendendo una registrazione lui lavorò appunto a metà degli anni 50 con Max Roach, continuò a lavorarci anche dopo la morte di Clifford Brown, a cui, come ricorderete, abbiamo dedicato, lo dico per quelli che non c'erano, perché vedo molta più gente di quell'occasione, una strepitosa lezione bellissima, indimenticabile, che molti di voi si sono persi, su Clifford Brown, Fats Navarro e Booker Little. Allora, una delle tecniche che Rollins usa è una tecnica musicale vecchia come il cucco e che, per esempio, è alla base di tanta musica di Vivaldi, tanto per darvi un esempio, quella che si chiama tecnicamente la progressione. Cioè l'idea di prendere una frase e spostarla lungo la scala, che so. Questa si chiama tecnicamente progressione. Prendo un'idea e la trasporto, ok? In più, Rollins ha, soprattutto in quegli anni, una particolare predilezione per un'altra figura musicale che si trova in tutti i generi musicali, che tecnicamente si chiama il mordente. Il mordente sarebbe quando si suonano due o tre, almeno tre note, più che due o tre note, vicine alla nota principale, ma suonate rapidamente, così per esempio. Ok? Quindi due note veloci che vanno sulla nota principale. Possono essere, il mordente può essere anche molto più complesso e si chiama gruppetto in quel caso. Queste figurazioni vengono mescolate anche a progressione, cioè Rollins, per esempio, prende un'idea, così, e poi la trasporta, come se fosse appunto una progressione. Ad esempio. Noi adesso ascoltiamo questo assolo del 56, che sembra veramente un lavoro iperrazionale, cioè in effetti è molto razionale, e proverò a descrivere quello che accade sulla lavagna, sullo schermo, man mano che l'ascoltiamo. Ora frase già pop. Impressionante. Cioè, i procedimenti sostanzialmente quali sono? A parte l'idea del mordente, no? E del pabrebi, con le notine. Cioè, Coltrane registrò più tardi un pezzo che si chiama Like Sonny, che è tutto fatto, un tema tutto fatto con queste notine. Alla fine i meccanismi che usa quali sono? Quello della progressione, qualsiasi sia il materiale, anche se la frase è più lunga, Rollins tende a ripeterla e a trasportarla. Qui lo fa in maniera addirittura sistematica, ossessiva. Poi ci sono quelle frasi bop, lunghe, fluide, che abbiamo sentito anche in I'm an old cowhand, che vengono dalla sua formazione. Rollins cresce imitando Charlie Parker, cresce ovviamente ascoltando Coleman Hawkins, che è il suo idolo, ma sostanzialmente la sua è una formazione bop. I primi dischi li incide con Bud Powell, con J.J. Johnson e poi con Miles Davis, quindi quel fraseggio agile, frenetico, tipico del bop, fa parte del suo linguaggio e serve, come vedete, serve a spezzare gli elementi più ripetitivi della progressione con qualcosa che è una sorta di divagazione, ecco. Poi ci sono dei motivi che lui inventa, su questo torneremo peraltro, che poi elabora, poi torna alla progressione, poi butta dentro una citazione. Vedremo che le citazioni sono il pane di Sonny Rollins. Rollins è un maestro della citazione, gli viene in mente di tutto quando suona. Poi di nuovo bop e poi due tipi diversi di progressione con due tipi di frasi infilate uno dopo l'altro. Se poi ve la andate a risentire, si trova anche su YouTube o su Spotify, cercate Max Roach Little Folks, potete risentirvi il passaggio per comprendere meglio quello che succede. Qualcosa di simile, ma andiamo ancora ad orecchio, poi vi farò entrare ancora più nel dettaglio, succede in una registrazione di un disco con Miles Davis del 1956 che si chiama Weird Blues. Qui abbiamo l'idea, ho scritto sviluppo intervallare emotivico, oggi è una giornataccia, dovrebbe essere festa, Domenica delle Palme, invece termini tecnici a go-go. Cosa vuol dire sviluppo intervallare? Allora, quando io suono due note, quello è l'intervallo, lo spazio fra due note, ok? Può essere ampio, stretto, molto ampio, può salire, può scendere. Gli intervalli, i motivi, sono i motivi, quelli che canticchiate, che sono costruiti da vari intervalli. Allora, Rollins è un maestro nel prendere degli singoli intervalli, cioè solo due note, oppure dei blocchi di intervalli, quindi un motivo di tre, quattro note, qui sentirete un motivo di solo tre o quattro note, e costruirci l'intero assolo. In fondo perché gli piaceva I am an old cowhand? Perché I am an old cowhand ha un tema fatto di poche note, ta ta ra ta ta, è semplici, ta ta ra ta ta, che è la stessa idea variata. Laddove c'è un elemento di semplicità, Rollins ci va a nozze, perché da quella semplicità lui può costruire qualcosa di complesso, come in questo caso. Per il momento aguzziamo l'orecchio e poi andiamo nel dettaglio. Una nota. L'intervallo. Di nuovo. Intervallo trasportato. Sempre lo stesso intervallo finale. Magistrale, un architetto, come se l'avesse scritta. In realtà tutto questo è il risultato di un pensiero profondamente istintivo. Quando Günther Schuller nel 57 scriverà un articolo, nel 58 scusate, in cui definisce quella di Rollins improvvisazione tematica, Rollins legge questo articolo con grande interesse e dice: mazza, non ci avevo mai pensato. La verità è perché lui è un architetto istintivo. È come veramente uno che costruisce incredibili edifici sulla carta e poi anche nella realtà suonando, senza avere, come dire, un retroterra necessariamente ragionato. Ovviamente lui sa quello che sta facendo, non va mica a caso, però lo fa appunto seguendo istintivamente la sua logica musicale interna, che non viene razionalizzata, ma c'è evidentemente questa logica musicale. E avete visto, si basa su degli elementi minimali che servono a rendere il discorso complesso. È un meccanismo che al tempo stesso combinatorio e di sviluppo. Cioè prendo un'idea e la allungo e la sviluppo, oppure prendo due idee e le combino, come per esempio quella della progressione, cioè ti do la frase e poi ti do, la metto all'inizio della frase, la metto alla fine, comunque tu a un certo punto la senti. E poi c'è il gioco di contrasto delle frasi bop veloci, senza dimenticare, fateci sempre caso, alle note strozzate, alle note false, i finti errori che cambiano, fanno cambiare continuamente colore alle frasi. Questo tipo di approccio trova il clou in quello che è tutt'oggi considerato il disco più importante, il capolavoro assoluto di Rollins, quello che lo ha fatto diventare improvvisamente importante agli occhi della critica e del pubblico, cosa che abbiamo visto gli ha procurato qualche problema psicologico, perché lui poi si è sentito letteralmente sopraffatto da questo ruolo. Lui a un certo punto ha detto: ma io veramente che ne so, cioè non sono mica il più grande musicista del mondo. Cosa che l'ha portato addirittura a sparire dalla circolazione 3 anni dopo. Il disco è Saxophone Colossus, impegnativo già dal titolo, voglio dire, pure i produttori ci potevano stare un po' più attenti. Però, insomma, lo chiamarono così. Guardate che il titolo non è postumo, cioè è un titolo del 57, presentato al pubblico, il colosso del sassofono. Questo disco contiene il famoso Blue Seven, che qui non ascoltiamo, che è il brano che Günther Schuller analizzò poi in quel famoso articolo, ma contiene anche il suo calipso più famoso, St. Thomas, che credo conosciate voi tutti, perché i genitori di Sonny Rollins venivano dalle Isole Vergini e quindi il calipso è sempre stato per lui un modo per riconnettersi alle origini familiari. In realtà la cosa è un po' più complicata, perché St. Thomas, benché sia una melodia che alla SIAE è registrata, dico la SIAE americana, è registrata come di Sonny Rollins, in realtà è una melodia popolare che circolava, forse di origine danese, perché le Isole Vergini, pensate un po', le Isole Vergini erano state colonia danese. L'anno prima Randy Weston aveva registrato la stessa melodia con il titolo Down Fire, ma non aveva registrato, l'aveva registrato come brano tradizionale, non ci aveva messo la sua firma. Rollins, furbo, sarà pure un insicuro, ma insomma furbo, registra questa melodia e la registra presso il diritto d'autore con la propria firma. Quindi anche se la melodia non l'ha inventata lui, comunque oggi lui si gode i diritti di questa cosa. Perché vi faccio sentire St. Thomas? Perché St. Thomas è un buon esempio di qual è la differenza fra l'improvvisazione tematica e motivica. Aggiungo, scusate, un dettaglio storico che qui non abbiamo il tempo di approfondire, però queste tecniche in parte Rollins le ha assimilate studiando con Thelonious Monk, perché c'è una fase importante nella sua vita in cui andava a casa di Monk da ragazzo, Monk gli insegnava i suoi pezzi, lui ha inciso anche tanti dischi importanti con Monk che qui non abbiamo il tempo di ascoltare ma che sono fondamentali. Andava a casa di Monk, Monk gli insegnava i suoi pezzi e Monk è stato un improvvisatore tematico, cioè uno che quando fa gli assoli non li fa alla maniera dei bopper combinando frasi veloci in maniera libera, no, li fa prendendo pezzi di tema e ricombinandoli continuamente. Questa è l'improvvisazione tematica, prendo il tema e lo ricombino. Rollins ha assimilato questa tecnica e l'ha portata ad un livello di complessità ancora maggiore e estremamente personale. Allora, improvvisazione tematica vuol dire prendere il tema e lavorarci su, cioè tu continui a sentire il tema. Improvvisazione motivica vuol dire invece inventarsi un motivo e lavorare su quel motivo, oppure prendere il tema, trasformarlo in qualcosa di nuovo, un motivo nuovo, che tu senti che ha una vaga relazione col tema, e lavorarci sopra. Vi faccio l'esempio concreto da St. Thomas. St. Thomas, no? Ce l'avete presente tutti. Mi aspettavo che cantaste tutti in coro la melodia, vabbè, come nei musical. Allora, le prime due note, sol, do, sono proprio, è un intervallo, due note, un intervallo che sale. Dopo aver fatto il tema, Rollins comincia a fare questa cosa. Cioè prende le stesse note, sol e do, ma invece di andare su, come l'inizio del tema, va giù. Andando giù, non somiglia più tanto al tema, diventa un suo motivo, che però è strutturalmente connesso al tema, e se lo lavora, letteralmente, cioè lo allunga, lo accorcia, lo varia ritmicamente, ci infila le sue frasi bop, le sue note false e in alcuni punti invece richiama direttamente il tema. Tutto l'assolo, noi sentiremo la prima metà del pezzo, è costruito, perché il pezzo è lungo, non lo sentiamo tutto, il primo assolo è costruito intorno a questa idea. La ripeto, prendo un intervallo del tema, lo faccio diventare un'altra cosa e ci lavoro sopra, improvvisazione emotivica. Oppure qui e lì prendo proprio il tema e lavoro sul tema. Max Roach alla batteria. Richiama il tema. Una logica incredibile. Pensiamo al tema. Eccetera, poi c'è un assolo di batteria, poi c'è, riprende Rollins a tempo più rapido, però a noi adesso più che ascoltare il brano per intero interessa individuare quelle tecniche, così poi quando andate a casa potete fare i fighi con i figli, moglie, mariti, amici, e dire ma guarda Rollins fa questo e quest'altro, e potete spiegare come se foste dei consumati musicologi a casa. C'è un aspetto che fin qui abbiamo solo intrasentito e che forse alcuni di voi non hanno colto: il modo in cui Rollins manipola il ritmo. E non mi riferisco solo a quelle due note ta-da, ta-da, ta-di-di-da, ti-da, ti-da, di-da. Tra l'altro qui stiamo parlando di ritmo e quando si parla di ritmo ricordatevi che il silenzio fa parte del ritmo. Per esempio in Weird Blues che abbiamo ascoltato di Miles Davis, le lunghe pause che nella prima parte dell'assolo Rollins fa fanno parte del gioco di tensione che il sassofonista adotta nel costruire, come un gioco di pieno e di vuoto, no? Proprio architettonico, per cui anche il vuoto pesa molto, soprattutto se poi il pieno è fatto di cose semplici, che quindi crea un effetto di contrasto. Ma mi riferisco anche a un altro modo di stare sul tempo. Rollins è un maestro umoristico sempre, perché sotto sotto avete sentito c'è dello humor, dell'ironia, anche della gioia in certi casi. Preciso subito, oggi non si piange, cioè il dramma è estraneo al mondo di Rollins, il drammatico, il tragico non ne parliamo, non sa neanche che cos'è. E invece la gioia, lo humor, il benessere, lo star bene sono i tratti fondamentali, l'ironia anche sono i tratti fondamentali di Rollins. Qualcuno ha detto anche, scusate, vale la pena di ricordarlo perché ci aiuta a capire anche i prossimi ascolti, un elemento sardonico, cioè di un'ironia graffiante, un po' cattivella anche, che a volte diventa più feroce nei confronti dei temi più stupidi che vengono appunto smontati e rimontati con un tocco sardonico. Però vi dicevo, per tornare alla questione ritmica, Rollins introduce questo elemento di humor, per esempio, alterando la velocità a cui suona le frasi. Cioè, non di rado gli capita, per esempio, di suonare su un tempo veloce, sentiremo degli esempi, ma il primo che sentiremo è particolarmente significativo, di suonare su un tempo veloce e di fraseggiare sopra lentamente, come se avesse sbagliato tempo. Oppure rallentando la frase per farla uscire dal binario ritmico su cui dovrebbe muoversi, per forzare completamente questa regolarità ritmica e invece far deragliare la melodia, oppure portarla ora accelerandola, ora rallentandola e quindi rendendo elastica la dimensione ritmica, che è un altro modo per manipolare, in questo caso a livello temporale, il suono. Noi ascoltiamo l'inizio, il primo assolo, di una vecchia canzone che si chiama Dearly Beloved, 1957. Non c'è bisogno di conoscere il tema, basta sentire all'inizio come Rollins suona le note tutte su posizioni ritmiche sballate, ritardate, non si capisce se è fuori tempo, se è troppo lento, se è più veloce, sentite. Contrasto, non è preciso. notate la fantasia sconfinata di Rollins? Siamo al quarto pezzo e non c'è un'idea uguale all'altra, è veramente pazzesco. E le relazioni anche tematiche, emotiviche dentro gli assoli che bisogna ascoltare e riascoltare richiedono anche una certa capacità, come posso dire, di decodificare certi segnali che lui manda. A un certo punto lui fa e fa una progressione su questa idea. Questa idea è in realtà un tema degli anni 30, 40, che si chiama Undecided, che quindi lui cita, e il fatto che citi indeciso, undecided, su un pezzo in cui il ritmo è completamente sballato, è un elemento appunto che ci fa sorridere, di umorismo, che però richiede, come dire, un livello ulteriore di ragionamento, che nella mente di Rollins è istantaneo. Lui collega le cose più disparate fra di loro durante l'improvvisazione, perché è come se avesse una specie di enciclopedia melodica dentro la testa, di melodie che sono i temi che lui suona, di melodie che sono quelle che lui si inventa, di melodie che sono gli intervalli e le citazioni come Undecided che sono qui, e poi nel processo improvvisativo costruisce il discorso combinando questi elementi in maniera folgorante, fulminea, istantanea. C'è un ultimo elemento che vorrei, in questa analisi, diciamo, delle componenti di base del linguaggio di Rollins, che sono le cadenze. Cos'è una cadenza? La parola cadenza in musica ha vari significati. In questo caso specifico mi riferisco a quell'episodio solistico in cui il solista rimane completamente da solo, in genere alla fine del brano. Per esempio, i concerti per pianoforte e orchestra hanno alla fine del primo movimento il momento in cui o anche per violino e orchestra, insomma per strumento solista e orchestra, hanno il momento in cui il solista ha il momento di virtuosismo, sta da solo, e nei tempi tra il 6 e il 700, in quel caso il solista, anche se si trattava di un cantante, improvvisava. Rollins è stato un maestro delle cadenze che soprattutto dal vivo, qui ne sentiremo un esempio breve in studio, ma soprattutto dal vivo si facevano sempre più lunghe, finché addirittura dalla fine degli anni 50 ha cominciato a sperimentare dei pezzi per solo sassofono. Il primo maestro a suonare pezzi per solo sassofono è stato Coleman Hawkins, e Rollins lo ha timidamente seguito un decennio dopo, alla fine degli anni 50, finché non è arrivato in un paio di occasioni negli anni 70 e poi negli anni 80 a fare dei concerti per solo sassofono, che devo dire alla fine non sono neanche le sue cose più interessanti, anche se è una sfida notevole. Il primo, vorrei ricordare, a fare dei concerti per solo sassofono è stato Anthony Braxton, che ha fatto anche il primo disco completo per solo sassofono, perché poi Rollins in realtà ha bisogno, come avete sentito, per esempio della sezione ritmica per giocare sugli slittamenti di velocità di fraseggio, quindi la solitudine assoluta e costante non è la sua dimensione ideale. Però le cadenze sono un momento anche di spesso dove lui accumula le citazioni, dove il suo gioco destrutturante del tema diventa ancora più ironico e sardonico, e dove il virtuosismo del sassofono si fa sentire in maniera ancora più clamorosa. Ancora dal disco Way Out West, con questa formidabile copertina che è sempre, insomma, io mi ricordo quando comprai l'LP, la trovavo molto divertente, ognuno ha i suoi divertimenti così adolescenziali, quindi vi prego di non giudicare. Alla fine di un brano che si chiama Wagon Wheels, sempre un brano del vecchio West, abbiamo una breve cadenza di Rollins. Il pezzo è ancora più sciocco, non lo sentiamo qui il tema, è ancora più sciocco del tema di... Forse si sente, sì, un pezzetto, del tema di I'm an Old Cowhand, tutto fatto di note lunghe che Rollins suona ora più piano, ora più forte, ora stirandole. Siamo alla fine dell'assolo di batteria. Ecco il tema. Alziamo un po', grazie. Stirando le note. Thank you. cadenza. Gli episodi e le cadenze sembrano proprio staccati spesso dal resto del pezzo e sono, come dire, dei momenti da godersi in maniera quasi autonoma. Ora, Rollins sarà stato anche un musicista, ed è un musicista istintivo che poi è cresciuto gradualmente con l'esperienza, ma fin dall'inizio si è dimostrato anche un compositore notevole. Ha lasciato al repertorio del jazz dei temi importantissimi che oggi sono parte del repertorio, sono parte dell'integrante del linguaggio del jazz, e vorrei fare, come dire, una sventagliata veloce dei soli temi che Rollins in particolare ha scritto nei primi anni 50, nella prima metà degli anni 50. Abbiamo già sentito St. Thomas, anche se St. Thomas abbiamo visto alla fine non è un suo pezzo, però ricordiamoci alcuni temi che oggi chiunque deve studiare. Alcuni di questi furono registrati, per esempio, nel periodo 52-54-55 con Miles Davis, quando frequentava il quintetto di Miles Davis. Il primo, il più famoso, è Olio. Con questo gioco ritmico. La B è lasciata vuota. Apposta, silenzio. Cercate di tenere a mente questo tema perché poi ce lo ritroveremo come autocitazione nell'ultimo esempio che vi mostrerò stamattina. Tatto di, tatto da, da, da, da, con questo giochino qui. Un tema registrato nello stesso periodo, cioè nel 54, si chiama, ha il misterioso titolo di I Regin, che è praticamente Nigeria al contrario, letto all'inverso. È un tema dallo slancio formidabile, bellissimo, che è stato registrato poi da Miles Davis anche con Coltrane senza Rollins al tenore. Tutto proprio di slancio. Sono i jazz, deve conoscere questi pezzi oggi, così come deve conoscere il terzo pezzo che Rollins incise con Miles Davis, che si chiama Doxy, uno dei suoi più famosi, che è basato su un giro armonico di una canzone degli anni 10, un'altra di quelle curiosità alla Rollins, una canzone che si chiamava Giada, e su cui lui scrive questo tema quasi vecchio stile. Thank you. Nel quintetto con Max Roach e Clifford Brown ci ha lasciato due perle. Intorno alla metà degli anni 50 Max Roach, ma anche altri musicisti, cominciarono a sperimentare in maniera sistematica l'utilizzo del tre quarti, del tempo di valzer nel jazz. Il jazz sembra andare un po' contro l'idea del valzer, per cui fu come una specie di sfida provare a fare del jazz suonando 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e Rollins ha dato un suo magnifico contributo con un pezzo proprio da valzer che si chiama Waltz Hot, registrato con Clifford Brown e Max Roach. C'è il suo assolo. Tra l'altro ne approfitto per ricordare che Sonny Rollins ha sempre ricordato che una delle persone che lo aiutò ad uscire, a non ricadere più che ad uscire nell'eroina fu proprio Clifford Brown, che abbiamo visto nella lezione appunto sui trombettisti, che adottava uno stile di vita pulito, molto lontano da quello dei boppers, e Rollins si rese conto che uno poteva fare il jazzista, il musicista, senza dover per forza unirsi alla combriccola dei drogati marci. L'ultimo tema che voglio farvi sentire, che viene dal quintetto Clifford Brown e Max Roach, è un altro di questi temi dinamici che si chiama Pent Up House. Questo gioco ritmico a rimbalzo. Eccetera. Voglio farvi scoprire un brano che forse pochi di voi conoscono, almeno quelli che frequentano il repertorio di Rollins. Questi sono proprio quelli che non si possono non conoscere, insieme a St. Thomas o Blue Seven. Ed è un brano che lui registrò nel 1957, che ironicamente si chiama Decision. In realtà è un pezzo sull'indecisione totale. E infatti è un blues. Ora, il blues sappiamo che ha 12 battute. I pezzi di jazz hanno tutto un numero di battute pari, perché sono belli quadrati, 4, 8, 16, pezzi di Rollins, quasi tutti quelli abbiamo sentito, Doxy, Waltz Hot, Pent Up House, sono di 16 battute. Questo ce n'ha 13, non solo ce n'ha 13, ma non si capisce dove comincia e dove finisce. Per farvi, noi lo ascoltiamo una volta sola, per farvi capire quanto è volutamente indeciso e disorientante, conterò le battute insieme a voi. L'altro giorno, ripassando questo pezzo, mi sono perso qualche volta. L'inizio in realtà è un'introduzione, e quindi non si conta. Proviamo insieme, non vorrei sbagliare. Se sbaglio insieme a voi, The Rollins sarà contento. No. vediamo che siamo nel giusto, perché comincia l'assolo dopo aver contato tre. Avete sentito che se uno lo sente così, sente questa decision, ammazzo. L'ultimo brano che non ascoltiamo perché dura circa 20 minuti è la composizione più ambiziosa che Rollins abbia realizzato ed è molto bella e molto importante, del 1959. Si chiama Freedom Suite in trio con Max Roach alla batteria e Oscar Pettiford al contrabbasso. Vi ricordo questo formato tipico del Rollins anni 50, cioè senza pianoforte. È un tentativo di Rollins di, in realtà ne parleremo nell'ultima lezione, quella dedicata a jazz e politica, è il contributo di Rollins alle lotte per i diritti civili, un pezzo che appunto parla di libertà e poi ispirerà al suo amico Max Roach un altro titolo un anno dopo di un brano, di una suite che si chiama Freedom Now Suite, cioè Libertà Adesso. Fatto sta che dopo la Freedom Suite, Rollins, abbiamo detto, sente il bisogno di andarsene, come dire, di allontanarsi. Però prima di parlare del ritiro, vorrei concludere questa panoramica della prima fase di Rollins, prima del ritiro, con un video. Vediamolo finalmente in carne ed ossa. Non ci sono molti documenti, anzi non ce n'è quasi nessuno del Rollins giovanile, parlo di documenti video, se non fosse che i sempre nostri previdenti nordici, cioè gli svedesi, hanno filmato Rollins durante il tour del 59. Lo vediamo in uno studio televisivo, non c'è pubblico, infatti loro poi smettono di suonare, non si sente un applauso, niente. Ci sono, dunque, non mi ricordo più chi è il bassista, Henry Grimes al contrabbasso e Joe Harris alla batteria, suonano velocissimi It Don't Mean a Thing If It Ain't Got the Swing di Duke Ellington. È un esempio che io vi mostro non solo perché uno dei pochissimi disponibili di Rollins nel 59, ma perché ci mostra anche la sua sovrumana capacità, questo è un tratto che non abbiamo ancora detto, ma lo diciamo subito, di suonare a tempi molto rapidi. Rollins fin qui lo abbiamo sentito su tempi medi, lenti, ma amava soprattutto suonare a tempi velocissimi che nessun altro musicista poteva permettersi e di suonare con un grandissimo aplomb. Qui sono i Rollins a 29 anni e suona il pezzo di Ellington. Se passiamo le luci, grazie. Gli intervalli famosi. Thank you. Nonostante questi risultati eccezionali, Rollins si ritira dalla scena, scompare per 2 anni, come vi ho detto, e torna con grande battage pubblicitario sulle scene nel 1962. L'album si chiama The Bridge, il ponte, diventa proprio un caso, come dire, giornalistico, e da The Bridge voglio farvi sentire Without a Song, perché scopriremo adesso un suono diverso, ma una radicalizzarsi in un certo senso di quell'attitudine da tematica, di improvvisazione tematica. Per farvi apprezzare bene l'intervento di Rollins, vi faccio sentire la canzone nella versione che a metà degli anni 40 ne diede Frank Sinatra, un giovanissimo Frank Sinatra, con l'orchestra di Tommy Dorsey. Solo il tema. Without a song the day would never end. Without a song the road would never bend. When things go wrong, a man ain't got a friend. Without a song that field of corn would never see a plow. That field of corn would be deserted now. A darkey's born, he ain't no good no how. Without a song I've got my trouble and woe, but sure as I know the Jordan will roll, and I'll get along as a song is strung in my soul. I'll never know what makes the grass so tall. I'll never know makes the rain to fall. I only know there ain't no love at all without a song, etc. Che cosa fa Rollins nella versione che si trova nel disco The Bridge, con la chitarra di Jim Hall, Bob Crenshaw al contrabbasso, Ben Reilly alla batteria? Allora, l'intervallo di base è questo, ok? Che si basa su un accordo che è questo. E la melodia comincia così. Percorre le 4 note dell'accordo all'ingiù. Ok? Poi fa. Il fatto di essere basato su una progressione, cioè un'idea che si sposta, deve essere piaciuto a Rollins, il quale però, dopo aver fatto il tema, alla maniera sua, spostandolo, modificandolo, eccetera, non si fissa su questa idea qui, ma crea un suo motivo partendo da questa idea, cioè da questa. Invece di fare questa, fa questa. Si fissa su queste note e con una fantasia incredibile inventa una infinità di variazioni. Noi sentiremo la prima parte del pezzo, il suo assolo. Vorrei per cortesia che faceste attenzione alla, appunto, ricchezza di invenzione, perché si rischia con Rollins, ve lo dico anche per esperienza personale, quello che io chiamo l'effetto Beethoven. Cioè uno sente Beethoven e dice, ma sì, certo, ovvio, fantastico, perfetto. No, è un'eccezione. Cioè uno, per rendersi conto della grandezza di Beethoven, deve sentire i suoi contemporanei e sentire che il 99% della musica che si produceva allora non ce la fa, proprio non ce la fa, non funziona, è brutta, oppure è semibrutta, che è ancora peggio. Rollins è lo, cioè noi siamo talmente abituati a sentire solo la buona musica che ci dimentichiamo che la buona musica sta ad un livello così alto di invenzione che possiamo comprendere solo se proviamo a riconfrontarla con la cattiva musica. Ecco, quello che fa Rollins sembra naturale e ovvio, in realtà non lo è, prendere quelle due note e costruirci un intero edificio. Impressionante, perché tutto questo poi ha un senso, ha una logica. Lui al tempo stesso, quello che è pazzesco di Rollins, non questo ma l'esempio successivo ce lo mostrerà in modo radicale, è che sfida la logica, sfida le connessioni più ovvie, le evita, e al tempo stesso però, basandosi su questi materiali semplici, ci fa sentire che c'è una qualche logica, che c'è una connessione, come se continuamente ci portasse su un terreno inedito, sconosciuto, e però che ci appare familiare. È assolutamente geniale. E tutto questo avviene con scelte istantanee, che non sono basate su formule, su lavori preparati, sono scelte istantanee. È una specie di strutturalista istintivo, diciamo così, estemporaneo. In più con questo suono che avete sentito, che è assolutamente unico, non somiglia a quello di Lester Young, di Coleman Hawkins, del suo amico ormai maturo John Coltrane, Dexter Gordon, è un suono particolare, lo sentite, è un po' nasale, un po' starnazzante, non ha il senso del bello, per esempio, che cerca Coltrane, un suono rotondo, pieno, pulito, no, c'è questo suono così quasi schiacciato, e poi le note falsate e gli attacchi un po' troppo duri, in certi casi non avete l'impressione che faccia quasi fatica a articolare le note, no? Cioè non è fluido, è tutto saltellante, è tutto fatto apposta, perché ogni nota è scolpita, è sbozzata. In particolare vorrei farvi aguzzare l'orecchio su un dettaglio. C'è un pezzo bellissimo del 1966 che viene dal disco della Impulse, East Broadway Rundown, che dovreste tenere sotto il cuscino, non se un LP, perché sennò vi si spezza. Questa battuta mi è venuta in questo momento, faccio come Rollins, diciamo improvviso sul momento. E però vi faccio sentire tre frammenti, è un brano troppo lungo per ascoltarlo insieme tutto, dura più di 12 minuti. Però ci sono tre frammenti in cui voglio farvi sentire come Rollins comincia, nella seconda fase, dopo il ritorno dal ponte, diciamo, comincia a utilizzare in maniera più marcata le note false, le note apparentemente sbagliate, che diventano più rumoristiche. Questo è un aspetto che deriva probabilmente anche dall'influenza di Ornette Coleman. Qui non l'ascolteremo, ma in quegli anni, nei primi anni 60, Rollins dirige un quartetto con Don Cherry, Henry Grimes, che abbiamo visto nel filmato, e Bill Higgins, il batterista di Ornette Coleman, cercando quindi un suono alla Ornette Coleman. Non suona free jazz, ma si apre moltissimo, gli assoli diventano ancora più lunghi e il suo fraseggio si fa ancora più audace. Fra le audace c'è questo uso dei suoni falsi, sbagliati, falliti, sporchi, come i tre che vi faccio sentire. Il prossimo esempio, fate attenzione perché sono dettagli. E il prossimo. Che non parte. Capisco che succede. No, scusate. Lo faccio sentire così che qualcosa non è andato. Il terzo esempio è questo. Sembra quasi sgraziato, no? Quasi incapace di infilare due note uguali, una uguale all'altra. Disarticolato, sghembo. È forse l'assolo più radicale, almeno in studio, perché dal vivo poi c'è questo disco che mi sarebbe piaciuto farvi sentire, che è Our Man in Jazz, della RCA, c'è questo live con il quartetto con Don Cherry, dove il pezzo più breve dura un quarto d'ora, e c'è proprio questo senso degli assoli lunghissimi, della ricerca su pezzi come Doxy, per esempio. Però ascoltiamo almeno i primi due minuti di quello che forse degli assoli in studio è il più radicale, On Green Dolphin Street, un pezzo che si basa No. qualcosa del genere. La cosa interessante qual è? Che la nota principale è questa. Ok. Una nota. E quella nota diventa la base di tutto il pezzo. Anzi, forse diventa il pezzo. Qui Rollins cerca di portarvi ai limiti della logica musicale, ma non lo fa da un musicista di free jazz che abbandona le strutture. Vi fa sentire la forzatura della logica, perché lui sta sulla struttura, vi fa sentire sotto la struttura e sopra col suo sassofono, utilizzando il criterio dell'intervallo, che in questo caso non c'è neanche, perché l'intervallo è la distanza fra due note. Qui c'è una nota sola. Arriva a mettere in discussione la logica stessa del discorso. Prima fa il tema tutto sghembo, eccetera. Avete sentito? Si ferma su questa nota, ronza, il tempo è tutto slabbrato, il fraseggio è slabbrato. È veramente il tentativo di costruire un'architettura, come posso dire, completamente, per rimanere nella metafora dell'architettura, un'architettura sghemba, che si sposta, che si muove, che è precaria e che pure c'ha, di cui però intravediamo una struttura, una forma, per quanto mobile e provvisoria. Io mi avvierei alla conclusione mostrandovi un filmato che ci mostra. Allora, il problema di questa conferenza qual è? È che Rollins ha, per apprezzare a fondo Rollins pienamente, non solo bisogna conoscere questi elementi di base che ho cercato di darvi, ma bisogna fare due esperienze. La prima è ascoltare per intero i pezzi, perché Rollins si esprime, come posso dire, sulla lunga distanza, cioè ha bisogno dello spazio e quindi di questi assoli molto lunghi, quindi va sentito dal vivo, dove i suoi pezzi durano 15, 20, 25 minuti, in cui lui suona instancabilmente e costruisce queste cattedrali provvisorie, chiamiamolo così, assolutamente mozzafiato. Il secondo aspetto è il suono. Ora, io non so quanti di voi hanno ascoltato Rollins negli anni d'oro. Io ho avuto la fortuna di sentirlo a metà degli anni Ottanta, ero un ragazzo, e questo per dirvi che Rollins, come sapete, è venuto in Italia anche negli ultimi anni, ma dagli ultimi 10-15 anni non aveva più il suono possente di 30 anni fa, come è logico, voglio dire, non è certo una colpa, è un problema d'età. Però ecco, chi ha avuto la fortuna di sentire Rollins, non dico negli anni 60, quando io sono nato, ma in tempi anche alla metà, alla fine degli anni 80, si ricorderà che non c'è nessun disco, nessuna registrazione, nessuna testimonianza video che ci possa dare l'idea di cosa è il suono di Sonny Rollins. Vedo che qualcuno annuisce, cioè non si può spiegare, qui stiamo, è come se stessimo guardando la Cappella Sistina su un francobollo, è qualcosa di possente, che ti stordisce, ecco, è qualcosa che può stordire, che ti dà un senso di esaltazione e di stordimento al tempo stesso, che è un suono gigantesco, personalissimo, che ti arriva, come dire, ti pervade pienamente. Quindi il mio tentativo così goffo è quello di farvi vedere un pezzo per intero, in realtà ne vedremo due, questo è il penultimo filmato, perché poi faremo un ultimo brevissimo, brevissimo appendice, e un altro dei suoi temi più famosi, Sonny Moon for Two, è un blues, e questo Sonny Moon for Two è stato registrato ancora una volta in paesi nordici, in Danimarca in questo caso, nel 65. Lui venne spesso in Europa, poi nella seconda metà degli anni 60, con Niels Pedersen, il grande bassista danese, e il batterista americano che viveva in Danimarca, Alan Dawson. È un blues senza pianoforte. Lui qui suona in maniera estremamente libera e molto ben rappresentativo di questa fase dello stile di Rollins. Fate caso che verso la fine fa una cosa assolutamente folle. Cioè, mentre suona il blues, comincia a citare Oleo, il suo tema, che è un tema bop, che non c'ha niente a che fare col blues, e voi vedete uno che cerca di ficcare a tutti i costi questo tema dentro una struttura che non c'entra niente. Immagino il disorientamento dei musicisti che l'accompagnano, i quali poi il filmato si interrompe quando lui all'improvviso attacca un altro tema e loro devono seguirlo. Guardiamoci questi minuti di Sonny Moon for Two. eccolo, di nuovo. Attacca Ghost of a Chance, è impressionante. Mi piace ricordare gli aggettivi che usava Enrico Polillo, ubriacante, diceva, stordetto, è ubriacante. E giustamente Polillo diceva anche che era un grande mattatore. Man mano che negli anni 60 è andato avanti, il ruolo degli accompagnatori, avete visto, è diventato sempre più neutro. Cioè Rollins è arrivato a suonare da solo perché basta a se stesso, non c'è bisogno dell'assolo di qualcun altro. Lui deve occupare tutto lo spazio, è un mattatore totale, assoluto, ma non per egoismo, è che è un mondo musicale, l'avete sentito, gigantesco, che si autoespande, si autogenera idea dopo idea, senza un solo momento di stanchezza, è qualcosa di fuori del comune. Eppure quest'uomo nel 69 si ritira di nuovo, insoddisfatto, notate i cambi di look, è un indeciso, è incerto, è insoddisfatto e per certi versi anche insicuro, cambia continuamente look, c'è il periodo poi con i capelli alla moicana, mi ricordo un mio amico di Chieti andò una volta dal barbiere con una copertina di Sonny Rollins dicendo voglio i capelli così, giuro è vero. E che cosa succede? Succede che però poi nel 71-72 ritorna e lì comincia, diciamo, l'ascesa del divo, che è fatta di una serie di bruttissimi dischi in studio, uno più brutto dell'altro, con qualche eccezione, dischi commerciali, di fusion, dove cerca di raggiungere un pubblico più vasto, brani brevi, che come sapete sono la morte per Rollins, i brani brevi, e invece esibizioni dal vivo che sono sempre più gigantesche, sempre più ubriacanti, sempre più travolgenti e creative, almeno finché l'età non comincia a farsi sentire. Cioè io ricordo di averlo sentito già a metà degli anni 90 e cominciava a non avere più il suono che aveva in precedenza. Quindi è una strana divergenza. I dischi in studio dagli anni 70 li potete dimenticare uno dopo l'altro, con qualche rarissima eccezione. I concerti sono tutti imperdibili. E in questi concerti Rollins rovescia sul pubblico gioia, creatività a livelli veramente ubriacanti. Io concluderei con un video, anche qui, di una tipica esibizione della metà degli anni Ottanta, questo è un concerto, mi pare, in Polonia, dove lo sentiamo fare un pezzo con cui lui chiude ancora oggi i concerti, cioè l'altro grande calypso che è Don't Stop the Carnival. È un'esibizione, anche questa ubriacante, che mostra i pregi ma anche i limiti delle esibizioni dal vivo di Rollins degli ultimi 30 anni. Quali sono i limiti? I limiti sono che i musicisti che gli stanno dietro sono tutti uguali, sono anonimi, cioè sono come una base preregistrata, lui suona. Secondo limite, che nei rari casi in cui prendono gli assoli tu stai lì a friggere perché non vedi l'ora che finisca l'assolo di questo poveraccio, e no, perché così, che non ha quasi niente da dire rispetto a Rollins, e non vedi l'ora che rientri Rollins a fare il suo assolo. Anche qui il povero David Lee, chitarrista, sentirete un breve assolo, insomma lui fa quello che può. Faremo un commentino finale e vi lascio però come ultimo ascolto a Don't Stop the Carnival, e con un ulteriore look di Rollins, che ha portato stavolta la barba, gli occhiali, il cappellaccio sulla testa, che così che Polillo lo definì un satanasso. We'll be right back. Consentitemi un'ultimissima riflessione, rapidissima. Abbiamo usato spesso la metafora dell'architettura. L'architettura è un'arte statica, suggerisce il movimento. La musica invece è un'arte del tempo, che si svolge nel tempo e, ahimè, l'improvvisazione fugge col tempo, perché a meno che non possa essere registrata, scompare un attimo dopo che l'hai prodotta. Sono quindi due arti molto diverse. In realtà è come se Rollins le avesse messe insieme e ci mostra come il pensiero umano a questi livelli di manipolazione degli elementi musicali più semplici, come avete visto, il suono inconfondibile suo, il ritmo, la melodia, possono creare un discorso musicale che ha una, come dire, la complessità, la vastità di un'architettura, ma si svolge sotto i nostri occhi e ci parla nel nostro tempo. Grazie.